Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Sembrava una notte abbastanza ordinaria, invece non era come tutte le altre. Londra 1973. Siamo nell'epoca della trasgressione, della sperimentazione musicale, dei guizzi della moda che libera le ragazze dalle costrizioni. È il 19 giugno, e se nell'Europa mediterranea il caldo estivo si fa già sentire, in Inghilterra il vento è ancora violento e accompagna una pioggia torrenziale come solo qui può essere. Il West End è il centro culturale della città. Gallerie d'arte, musei, cinema, locali, ristoranti e moltissimi teatri, grandi e piccoli, tradizionali e d'avanguardia. In poche parole, un corrispettivo di Broadway a New York. Ogni notte fiumi di curiosi, sia abitanti che turisti, aspettano l'apertura dei botteghini per vedere l'ultimo spettacolo partorito dalla fantasia di qualche geniale autore. E questa sera sono in molti quelli che girano attorno all'indirizzo di un piccolo teatrino nascosto in un palazzo, il Royal Court Theatre Upstairs, uno di quelli che non si scoprono per caso, bisogna andarci apposta. Ci sono già state due preview dello show, una il 16 e una il 18 il giorno prima, ma erano più che altro destinate agli addetti ai lavori. Questa sera, invece, anche se ancora non lo sanno, gli spettatori stanno per assistere alla nascita di un vero e proprio cult. Il Rocky Horror. Il Rocky Horror Show, che al cinema diventa il Rocky Horror Picture Show, non è un semplice spettacolo, ma un feticcio. Musical per eccellenza, adorato dai suoi cultori, trasgressivo, macabro, esilarante horror fantascientifico. Tradotto in 6 lingue, in italiano mai doppiato, solo sottotitolato, rappresentato ovunque, è oggetto di saggi, tesi di laurea, studi. Ha ispirato libri, programmi TV, film e perfino un videogioco. Nel 2003, quando la rivista americana Entertainment Weekly ha redatto la classifica, il Rocky Horror è balzato nelle prime posizioni dei 50 cult movies di sempre. 2 anni dopo, nel 2005, è stato inserito nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti. Simona Marletti, del Rocky Horror Picture Show Italian Fan Club, lo descrive con queste parole. Il Rocky Horror ha 2 diversi livelli. Uno più frivolo e divertente, l'altro più profondo e psicologico. Così ci sono fan che amano lo show per la confezione, le bellissime musiche, i lustrini, le battute, e ci sono fan che sono innamorati del significato, del contenuto. Molti ne fanno una vera e propria filosofia. Ad alcuni ha cambiato radicalmente il modo di vedere il mondo e di vivere la propria quotidianità. Mentalità più aperta, vedute più ampie. Tutto è lecito, non ci sono tabù, nessuno giudica. Don't dream it, be it. Oggi a Destini Incrociati vi raccontiamo la storia dei 2 uomini che hanno dato vita a questa folle e rivoluzionaria avventura. Il primo si chiama Richard O'Brien. Richard O'Brien. A differenza di altri musical, che sono costruiti in modo semplice, il Rocky Horror ha una trama avvincente e densa di avvenimenti. America anni 70. Brad Majors e Janet Weiss sono 2 fidanzatini che decidono di sposarsi. Vogliono dare la notizia di persona al dottor Everett Scott, perché si erano conosciuti proprio durante le sue lezioni. E così, in una sera di pioggia, si mettono in macchina. Però perdono la strada, bucano, e l'unica porta a cui bussare per chiedere aiuto è quella di un castello. Ad aprirgli è un maggiordomo gobbo e vagamente inquietante, Riff Raff, che li invita a entrare. I think perhaps you better both come inside. Non è una notte qualsiasi. Al castello è in corso la convention annuale dei Transilvani. Se gli ospiti sono tutti stravaganti, ancora di più lo è il padrone di casa, un travestito in gabardina dal nome Frankenfurter, che fa lo scienziato e gli mostra, nel suo laboratorio, un ragazzone biondo e muscoloso, Rocky, perfetto per soddisfare le sue voglie. Dopo aver ucciso in modo sanguinario un biker teppista, Frank si apparta con Rocky nella sua nuova suite matrimoniale, mentre Brad e Janet vengono accompagnati nelle loro stanze, stanze separate ovviamente. Nel cuore della notte, sia Janet che Brad ricevono la visita di Frank. Entrambi si lasciano andare a lui senza opporre resistenza. Who is it? Who's there? It's only me, Janet. Oh, Brad, darling, come in. Arriva il dottor Scott, l'amico di Brad e Janet, che in realtà collabora con un'agenzia governativa che si occupa di UFO. È lui che a cena spiega che Frank e tutto il suo entourage non sono altro che alieni provenienti dal pianeta Transsexual della galassia di Transilvania. Parte un delirante musical orgiastico, dal quale tutti, seguendo la filosofia del piacere assoluto, sono travolti. Finché il maggiordomo Riff Raff uccide Frankenfurter senza pietà. Gli ospiti terrestri vengono invitati a lasciare subito il castello, che, rivelando la sua vera natura di astronave, decolla alla volta di Transilvania. Se vi state chiedendo che fantasia dirompente ci voglia per inventare una storia simile, la risposta migliore è raccontarvi chi è l'uomo da cui questa storia è venuta. Please welcome the creator of it all. I'm gonna say children. It's Mr. Richard O'Brien! Provate a chiedere a un inglese quale città sia sinonimo di benessere, tranquillità e cultura. In molti vi diranno Cheltenham, poco più di 100.000 abitanti, rinomato centro termale, architettura Regency e tanto sport. È qui che il 25 marzo del 1942 viene alla luce il piccolo Richard Timothy Smith, che deciderà di farsi chiamare Richard O'Brien. Nel 1951, quando Richard ha soltanto 9 anni, la sua famiglia decide di trasferirsi in Nuova Zelanda, dove papà ha appena acquistato un allevamento di pecore. Tauranga, che oggi è la maggiore città della regione di Bay of Plenty, nell'isola del nord della Nuova Zelanda, si è sviluppata davvero solo dopo gli anni 60. Onde per fare surf, grandi parchi, clima caldo e secco e ottima frutta, soprattutto kiwi e mapo. L'incremento demografico ha avuto un grande picco in questo piccolo paradiso che, nel momento in cui ci arriva Richard, è ancora abitato da pochissimi immigrati europei. Quando mi hanno detto che ci saremmo trasferiti, io non avevo neanche ben chiaro dove fosse la Nuova Zelanda. Non ero abbastanza grande per capire, ma nemmeno troppo piccolo per non accorgermi di nulla. L'idea di andare dall'altra parte del mondo, da un lato mi faceva paura, dall'altro mi attirava moltissimo. Le giornate di Richard trascorrono serene nella fattoria di famiglia e il tempo passa veloce tra le incombenze domestiche e qualche cavalcata. La scuola non gli piace. Ci va perché è obbligato a farlo, ma non è certo quello che si dice un allievo modello. Quando ha soltanto 15 anni, abbandona gli studi e il suo destino sembra scritto. Continuerà a badare alle pecore, mandando avanti la tradizione di papà. L'unica cosa che lo distoglie dal lavoro, a parte il cavallo, è il cinema. Ad appassionarlo sono soprattutto i classici della fantascienza degli anni 50 e di tutti il suo preferito è senza dubbio When Worlds Collide, uscito in Italia con il titolo Quando i mondi si scontrano, diretto da Rudolf Maté, ispirato all'omonimo romanzo di Philip G. Wiley, a sua volta ispiratore del ben più recente Deep Impact. Richard è catturato dalla spettacolarità del catastrofismo e guarda e riguarda il film continuamente. Se i nostri calcoli dovessero rivelarsi esatti, questa sarebbe la scoperta più terrificante della storia del mondo. Quei due corpi hanno percorso 1 milione di chilometri in 2 settimane. Stanley, Randall deve partire prima possibile. Le carte sono pronte, le ho già catalogate e classificate. Ecco gli ultimi rilevamenti. Le aggiunga le altre. Voglio che il professor Andrew abbia tutti i dati possibili. Oh, Paul, Stanley, forse è meglio che Randall non sappia che cosa deve trasportare. You know I might be alone, but not be the strong. It's all that really matters. Someday, baby, you and I will be the ones. Good luck's gonna shine. Someday, baby, you and I will be the ones. So, oh, Richard O'Brien è un ragazzo che ha lasciato la scuola per dedicarsi alla fattoria di famiglia. Non riesce però a ignorare l'attrazione per il grande schermo troppo a lungo. Quella che all'inizio sembra una passione comune a tanti, il cinema, presto diventa per lui una vera e propria urgenza. Si rende conto che la Nuova Zelanda non è il posto giusto, è una terra magnifica, dove ha passato anni straordinari immerso nella natura, ma è troppo fuori dai giochi del mondo. E così, ritorna in Inghilterra. Londra 1964. I 20 anni sono fatti per sognare. È l'età in cui tutto sembra possibile. Richard ha in mente di fare l'attore, ma come succede a molti con la sua stessa ambizione, deve arrangiarsi con altri lavori per riuscire a mantenersi in una città che, proporzionata alle altre, è già molto più cara. Ho fatto di tutto, dal camionista al parrucchiere. Curioso, no? Per me che sono diventato calvo. Era faticoso, ma mi sembrava bellissimo. Londra era viva in quegli anni. Era il grande momento della mia generazione. Di tanto in tanto Richard si presenta a un provino. Gli va bene qualsiasi cosa pur di muovere i primi passi. Gli basterebbe una pubblicità per mettere almeno un piede nell'ambiente. Un giorno un candidato in lizza per lo stesso ruolo, anche lui con il numero attaccato alla giacca con una spilla da balia, gli dà un grande consiglio. Siccome c'è già un attore che si chiama Richard Smith, farebbe bene a trovarsi un nome d'arte. È in questo momento, ben prima di diventare famoso, che Richard Timothy Smith diventa Richard O'Brien. Carry on, cowboy. Se il periodo passato in Nuova Zelanda è stato fondamentale per la sua crescita, in realtà lo è stato anche per il suo sogno, visto che sfruttando la sua capacità di stare a cavallo, Richard riesce finalmente a trovare il primo ingaggio come stuntman. Recita, per così dire, in una serie di celebri film parodistici sul western dal titolo Carry On Cowboy. Non compare neppure nei titoli, tanto il suo ruolo è secondario, però gli serve per fare esperienza sul campo. Fare lo stuntman mi è servito a conoscere i segreti del set, quello che succedeva dietro. Fino a quel momento io avevo visto i film soltanto come spettatore. È stata una grande esperienza. Ho preso confidenza con il mezzo e mi sono fatto anche molti amici. Qualcuno di loro, a dispetto di quello che si dice sul cinismo del mondo dello spettacolo, mi ha davvero dato degli ottimi consigli per andare avanti. Uno di questi consigli è tanto banale quanto efficace: studiare. Richard, entusiasta e determinato, comincia a rendersi conto che queste doti non bastano per fare l'attore. La concorrenza è spietata e molti ragazzi della sua stessa età sono più preparati di lui, che non ha mai approfondito davvero la recitazione se non da autodidatta. Corsi, workshop, lezioni private con insegnanti che gli costano per 2 ore quanto una giornata di lavoro. È arrivato il momento di giocarsela fino in fondo. Affrontare i provini con una coscienza diversa dà i suoi primi frutti. Non lo chiamano certo per grandi ruoli, ma finalmente riesce a trovare qualche particina. Le entrate, che prima erano costituite per la maggior parte da 1000 lavoretti saltuari e mal pagati, piano piano vengono rimpiazzate da piccoli ingaggi da attore. I corsi basati sulla teoria del method acting non lo aiutano soltanto a sviluppare il suo talento, ma anche a tirar fuori quell'emotività sepolta che serve a chiunque vada in scena per indossare i panni di qualcun altro. Le improvvisazioni teatrali sono un po' come una seduta dallo psicanalista, perché ogni volta devi indagare la tua parte più profonda, metterti a nudo di fronte agli altri. Quando ero un ragazzino, pensavo che fare l'attore fosse un gioco, una cosa divertente. Un po' lo è, ma è anche molto altro. Solo dopo anni di studio ero pronto per il grande salto. Londra 1969. Se Broadway è la mecca del musical in America, il suo corrispettivo europeo è il West End. Ogni stagione si alternano musical storici, diventati classici, e produzioni sempre nuove che attirano milioni di spettatori da tutto il mondo, affascinati da musica e coreografie ad alto tasso di spettacolarità. Siamo in un grande teatro dove, per colpa del riscaldamento rotto, sia quelli del casting che i provinanti sono costretti a tenere addosso giacca e sciarpa. Si stanno tenendo le selezioni per Hair. Hair è una sontuosa opera rock scritta da James Reddo e Jerome Ragni, che racconta la controcultura hippie degli anni 60. I Capelloni sono un gruppo politicamente attivo della cosiddetta età dell'acquario, che rifiutano la coscrizione alla guerra del Vietnam e cercano a New York di vivere secondo una nuova filosofia. vita comunitaria, amore libero, ribellione contro il conservatorismo della società e contro i modelli delle generazioni precedenti. Dopo un debutto off-Broadway nell'ottobre del 1967 al Public Theater e una spettacolare replica in una discoteca della Midtown di Manhattan, Hair ha la sua consacrazione al Biltmore Theater di Broadway il 29 aprile del 1968. È la prima di 1750 repliche. Poco dopo incomincia anche la produzione londinese, destinata ad andare in scena ben 1997 volte. Richard O'Brien ai provini è in coda insieme a centinaia di ragazzi che sognano di fare parte del cast. La differenza è che lui stavolta viene preso. Non mi sembrava vero. Avrei fatto qualsiasi cosa pur di riuscire a far parte di un grande musical. E adesso eccomi lì, uno del cast di Hair. Non sapevamo che quel musical sarebbe entrato nella storia, ma l'atmosfera era davvero speciale. Prove interminabili, lezioni di canto e di ballo, una preparazione a tutto tondo. Per far parte di un musical non basta affatto saper recitare. Richard O'Brien, convinto di aver trovato la sua strada, ci mette tutto se stesso e sera dopo sera riesce a far crescere il suo personaggio come neanche lui stesso aveva sperato. Eppure Hair è soltanto il primo passo. Ancora lui non lo può immaginare, ma tra poco, insieme a un grande regista, darà vita a niente meno che al Rocky Horror. Destini incrociati. A Destini incrociati siamo a Londra. È il 1969 e va in scena il musical Hair. Tra i ragazzi del cast è stato preso anche Richard O'Brien, ma per lui è soltanto il primo passo verso il successo, visto che tra poco nella sua testa prenderà vita quella folle allucinazione che è il grande musical Rocky Horror Show. Richard O'Brien, nato in Inghilterra ma cresciuto in una fattoria della Nuova Zelanda, è tornato a Londra per tentare la carriera di attore. Grazie alla sua capacità di cavalcare, ha cominciato come stuntman per la serie Carry On Cowboy, ha frequentato corsi di recitazione, ha ottenuto qualche parte di poca importanza in piccole produzioni e adesso è finalmente riuscito a entrare nel cast di Hair, il mitico musical hippie. È stata un'esperienza straordinaria. Non avevo mai recitato, ballato e cantato contemporaneamente prima. Ho avuto la fortuna di farlo con un gruppo di ragazzi della mia età. Ogni sera, dopo la replica, si stava a parlare fino a notte fonda. È stato il mio primo approccio al musical e di certo è stato qui che me ne sono innamorato. Far parte del cast di Hair, oltre che essere prestigioso, permette a Richard di mollare tutti gli altri lavori per mantenersi soltanto con la sua arte. Sul palcoscenico del musical incontra due persone a cui sarà legato per tutta la vita. Una è la sua prima moglie, Kimmy Wong, che sposa il 4 dicembre 1971 e da cui ha un figlio l'anno dopo, Linus. L'altro è l'attore Tim Curry, l'uomo che in Rocky Horror Show verrà scelto per interpretare Frankenfurter. Io e Tim siamo diventati subito ottimi amici. Ci divertivamo a stare insieme anche quando non stavamo lavorando. Per quello, quando ho pensato al personaggio di Frankenfurter, mi è subito venuto in mente lui. Ma era ancora presto. In quel momento eravamo solo due ragazzi che si divertivano a fare gli hippie. La vita di Richard O'Brien sembra aver preso una buona piega. Vive a Londra, fa l'attore e trascorre il suo tempo libero leggendo fumetti di fantascienza e guardando film dell'orrore. Con sua moglie Kimmy condivide un'altra passione, quella per la musica. I due, con il nome di Kimmy and Ritz, incidono addirittura tre dischi, uno dei quali contiene la canzone Eddie, che riapparirà più tardi in Rocky Horror. Questo brano, i suoi gusti letterari, l'amicizia con Tim Curry. Sono già tante le suggestioni che si affollano nella vita di Richard e che portano dritte al musical capolavoro che scriverà di lì a poco. Ma come sempre, è il destino a dare la grande svolta. Nell'estate del 1972 Richard O'Brien incontra l'uomo grazie al quale il Rocky Horror vedrà la luce. Il suo nome è Jim Sharman. C'è un sole caldissimo a Sydney quando il 12 marzo del 45 Jim Sharman nasce in una casa non troppo distante dalla spiaggia. Forse già adesso, mentre sua madre lo tiene stretto tra le braccia, riesce a sentire quel profumo di mare che fa parte della sua storia. Lo stesso profumo che ricercherà ovunque nei suoi viaggi, soprattutto dopo molto tempo lontano dalla sua Australia. Radici e nostalgia per la propria terra, due concetti che cozzano con la vita nomade che James, questo il suo nome all'anagrafe, è abituato a fare fin da piccolo. Papà James Michael e mamma Christina McCandlish, infatti, si spostano per tutto il paese con la loro carovana. È una tradizione di famiglia perché è stato il nonno a gestire per primo un baraccone itinerante con il quale fermarsi nei villaggi per intrattenere gli abitanti. La Jimmy Sharman Troupe, con i numeri di magia, le gag da clown e le leggende popolari raccontate dal cantastorie, è una delle più famose in Australia. E anche se Jim frequenta la scuola a Sydney, non è immune dal fascino dell'artista girovago. Il salone, il suo fiato, il riso è sfiatato dal troppo soffiare. Ti creda, mi pare, il cerone s'appiccica al volto, il mal del buffone. Ridere vorrei stasera, ridere vorrei per me. La divertente e un po' pazza famiglia di Jim Sharman lo porta in giro per l'Australia con il suo baraccone. Ed è spettacolo dopo spettacolo che lui capisce i segreti degli artisti. Tutto si mescola nelle esibizioni. Il teatro con la magia, la musica con il circo, il vaudeville con le leggende popolari. Tutti, anche se sono specializzati in qualcosa di particolare, sanno fare tutto, incluso trucco e costumi. Jimmy impara che per conquistare il pubblico bisogna affascinarlo, trascinarlo in un mondo incantato che tanto più è distante dalla realtà, tanto più riesce a far sognare. Quando è ancora un bambino è già sul palcoscenico, ma preferisce più che apparire con la sua faccia, ideare dei numeri da fare eseguire agli altri. Avevo una sorta di imbarazzo, un pudore che era prima di tutto nei confronti di me stesso e poi di chi mi guardava. Mi è servito per mettere a fuoco che sarei stato meglio lavorare dietro le quinte. Jim Sharman, a differenza della maggior parte dei suoi coetanei, è un adolescente con le idee chiare. Una sera va in camerino dai suoi genitori che si sono appena esibiti, si siede per terra e mentre loro si tolgono i vestiti di scena, gli dice che ha capito che vuole fare il regista. I due sgranano gli occhi. Che ne sarà del tendone? Chi prenderà il loro posto? Dopo una lunga discussione, mamma e papà capiscono che non c'è più molto da dire. Jim, determinato com'è, sicuramente finirà per fare quello che ha deciso. Mentre Richard O'Brien comincia a studiare recitazione solo dopo i primi provini, Jim Sharman, creatività vulcanica ma pragmatismo da organizzatore, approfondisce il suo interesse nei confronti del teatro laureandosi con una tesi nel campo della produzione al National Institute of Dramatic Art di Sydney, lo stesso dal quale sono usciti talenti come Mel Gibson, Kate Blanchett e Baz Luhrmann. Non ho mai fatto fatica a studiare. Mi sono laureato nel 1966 e la mia era la generazione del rock. Io riuscivo a conciliare le due cose, il silenzio della biblioteca e i concerti deliranti. Per chi vuole fare il regista, d'altra parte, la musica non è soltanto una passione, ma anche qualcosa da conoscere per forza, per metterla a servizio del proprio lavoro. Sharman, talento precoce, si dedica alle sperimentazioni e costruisce spettacoli teatrali innovativi, vedendo i quali è difficile credere che siano stati messi in piedi da un ragazzo di soli 21 anni. Collabora spesso con la compagnia dell'Old Town Theatre, che già lo tratta da professionista navigato. Ecco perché gli affidano niente meno che una produzione per l'opera. Il suo controverso Don Giovanni di Mozart è l'occasione per dimostrare al mondo quanto vale. E se il pubblico applaude senza contenersi alla fine dello spettacolo, mamma e papà, posti riservati in prima fila, sono orgogliosi di aver lasciato che il loro figlio ribelle seguisse il suo istinto. Alla prima ero emozionatissimo. Avevo già diretto varie cose, ma quello era un vero e proprio banco di prova. Eppure la mia più grande preoccupazione non era piacere alla platea, ma a mia madre e a mio padre. Se non fossi piaciuto a loro, quello sì sarebbe stato un grande dolore. Il destino di Jim Sharman si unisce per la prima volta a distanza con quello di Richard O'Brien quando, mentre Richard sta andando in scena con il musical Hair nel West End londinese, Jim ne dirige una versione australiana che parte da Sydney e fa il giro del mondo, da Melbourne a Tokyo per arrivare a Boston. Poi l'incontro tra i due avviene davvero e cambia il corso delle loro vite. Siamo nel 1972 e questa volta si parla di Jesus Christ Superstar. Autore dei testi Tim Rice, autore della musica Andrew Lloyd Webber. Due cavalli di razza hanno dato vita a una grande opera rock sugli ultimi sette giorni della vita di Cristo. Ad agire, come in Hair, è ancora un gruppo di hippie, ma questa volta viene dato grande spazio a tre personaggi. Un Gesù molto umano e poco trascendente, con dubbi esistenziali e paura. Giuda Iscariota, vero protagonista, vittima a suo malgrado di un disegno più grande di lui, e non traditore come lo dipinge la Bibbia. Maria Maddalena, la femminilità per antonomasia, che è investita da un amore che lei stessa non sa comprendere. Jim Sharman si occupa della produzione australiana, poi vola a Londra, dove lo vogliono anche per quella inglese. Era una grande responsabilità, perché il musical Jesus Christ, anche se il film sarebbe stato girato di lì a pochi mesi, era già un grandissimo successo in teatro. Ma come al solito ho cercato di non spaventarmi, ho preso un bel respiro e ho fatto l'unica cosa che sono sicuro di saper fare: il regista. Ci sono soprattutto due cose che Jim Sharman si porta dietro dalla sua infanzia in giro per l'Australia con la carovana da circo del nonno. La prima riguarda l'universo trasognato degli artisti girovaghi, tutte quelle suggestioni che, mescolate agli altri suoi interessi, l'hanno portato a diventare un grande visionario. La seconda è la voglia, ben prima della necessità, di occuparsi personalmente di tutti gli aspetti dello spettacolo che sta per mettere in piedi. Si tratta ormai di produzioni piuttosto grandi, per cui delegare è quasi d'obbligo, ma Jim, con l'impostazione da capocomico, preferisce avere sempre un occhio su tutto, dai costumi alla musica, dalla scelta del cast al trucco. I personaggi principali ci sono già tutti. Quello che manca è il coro. Non è un ruolo prestigioso, ma Richard O'Brien, reduce dalla meravigliosa esperienza di Hair, si presenta ai provini senza pensarci due volte. Ormai la musica è diventata parte integrante della sua vita. Scrive musica e sta incidendo dischi. L'esperienza del musical mi ha fatto capire quanto sia importante la musica nello spettacolo e ho cominciato ad appassionarmi alla composizione. Non sono un grande maestro, ma qualcuna delle mie canzoni ha avuto un discreto successo. Sharman scrittura O'Brien per il doppio ruolo di apostolo e di lebbroso. Richard torna a casa di corsa con il copione arrotolato ancora nella tasca dietro dei pantaloni e abbraccia sua moglie per la felicità. Ma Sharman presto diventerà qualcosa di più di un semplice regista con cui lavorare. Insieme i due daranno vita al Rocky Horror Show. Jesus, I am overjoyed to meet you face to face. You've been getting quite a name all around the place. Healing cripples, raising from the dead. Now I understand your God, at least that's what you say. Destini incrociati. A Destini Incrociati siamo a Londra, è il 1972 e il regista australiano Jim Sharman ha appena scritturato Richard O'Brien, attore e musicista, per il doppio ruolo di apostolo e di lebbroso nella versione inglese del musical Jesus Christ Superstar. Dopo 18 mesi di permanenza a Broadway, la sontuosa opera rock sugli ultimi sette giorni della vita di Gesù approda nel West End e rimane in scena per 8 anni, diventando in quel momento il musical continuativamente più a lungo rappresentato a Londra. Naturalmente gli attori cambiano e anche il regista si dedica ad altro, ma per la parte dell'alieno Willy nella commedia The Unseen Hand vuole ancora lui, Richard O'Brien. Mi piaceva molto lavorare con Jim. Ha sempre avuto la capacità di guardare le cose dall'alto e di dare il consiglio giusto per rendere una cosa davvero speciale. Ho cominciato a pensare di fargli sentire quello a cui stavo lavorando, ma allo stesso tempo avevo un po' paura del suo giudizio. Da quando ha cominciato a incidere dischi con la moglie Kimi, per Richard O'Brien la musica è diventata un'urgenza espressiva. Se non sta recitando si diverte a comporre, ma via via che passa il tempo si accorge che la voglia di realizzare un'opera scritta interamente di suo pugno cresce. Il progetto è ambizioso, ma per il suo musical ha già pronta l'ouverture. L'ha scritta come omaggio ai classici del cinema di fantascienza che ha tanto amato da ragazzino, quando l'hanno invitato a esibirsi durante la festa di Natale negli studios della EMI. Science Fiction Double Feature ha avuto un discreto successo e lavorandoci un po' Richard l'ha trasformata nel primo brano del suo musical. Il suo sogno è mettere insieme tutte le suggestioni che affollano il suo cervello fin da quando era bambino e di mescolarle a suon di rock and roll, fantascienza, ma anche horror, B-movie e fumetti sexy. In mente ha già il titolo, They Come From The Denton High. E così un giorno, mentre sta ancora lavorando alla musica e allo script, decide di farsi coraggio e approfitta di un momento di pausa delle prove di The Unseen Hand per parlare con Jim Sharman, sperando che il regista possa aiutarlo a concretizzare il suo progetto ancora confuso. Siamo al Royal Court Theatre Upstairs e gli attori si stanno rilassando per qualche minuto. Sharman è uno che pretende e il suo metodo di lavoro prevede che le scene vengano ripetute finché non sono perfette. Adesso è seduto sul palco, con matita in mano e copione appoggiato sul legno del pavimento e prende qualche appunto sulle cose da dire dopo ai ragazzi. Richard si avvicina e gli chiede se può rubargli qualche minuto. Poi gli mette in mano la prima bozza del suo musical. Sharman sfoglia le pagine distrattamente, alza gli occhi dal foglio e gli dà il primo consiglio. Il titolo non funziona. Ed è così che They Come From The Denton High diventa The Rocky Horror. Richard aveva ragione, il suo folle sogno ha davvero bisogno del talento di Jim Sharman. Now all I want to know is how to go. I've tasted blood and I want more. I'll put up no resistance. I want to stay the distance. I've got an itch to scratch. I need assistance. Touch, touch, touch, touch, touch me. I wanna be dirty. Throw me, chill me, fulfill me. Creature of the night. Jim Sharman si porta a casa il copione di Rocky Horror e anche se non è ancora completo lo legge tutto d'un fiato. È impressionato dal talento di Richard O'Brien che si è inventato un mondo folle, irriverente, provocatorio, fin dove nessuno aveva mai osato prima. Gli propone in preda all'entusiasmo di rappresentare il musical sempre al Royal Court Theatre Upstairs, dove stanno già andando in scena. 5 settimane, per vedere cosa succede. Laura Campbell, che diventa Little Nell, lavora come barista in un ristorante. Christopher Malcolm viene scritturato come Brad. Jonathan Adams indossa i panni del narratore. Patricia Quinn, una giovane attrice irlandese dai capelli rossi, interpreta Magenta. Richard O'Brien vorrebbe fare il rocker Eddie, ma Jim Sharman, con la sua solita lungimiranza, lo convince a impersonare il servitore Riff Raff, determinando ancora una volta il suo destino. Per il ruolo di Frankenfurter è perfetto Tim Curry, lo storico amico che Richard ha conosciuto quando entrambi facevano Hair. Il debutto, messo a punto a quattro mani da Richard e Jim, ha un successo straordinario. Fin dalla prima sera sia platea che critica gridano al capolavoro. Si crea un mercato nero di biglietti per lo spettacolo e la produzione decide quindi di spostare lo show nel King's Road Theatre, dove continuerà a registrare il tutto esaurito fino al 1974, data del debutto americano. Fra gli spettatori figurano grandi star del rock come Elvis Presley e quando il produttore Lou Adler assiste allo show si accaparra immediatamente i diritti per la trasposizione cinematografica. Mi sembrava incredibile quello che stava succedendo. Il Rocky Horror poteva risultare fastidioso, spiacevole, e invece la gente lo adorava sempre di più. Non sarei mai riuscito ad ottenere questo risultato senza Jim. Prima il titolo, la sua impronta in tutto. Ogni volta che mi ha dato un consiglio, ha dato una svolta geniale. Posso dire che senza Jim Sharman, il Rocky Horror non sarebbe mai diventato quello che è. 1975. Rocky Horror Show diventa sul grande schermo Rocky Horror Picture Show. Tra gli attori americani che tentano di aggiudicarsi una parte ci sono anche John Travolta e Richard Gere, ma il ruolo principale viene però assegnato come in teatro a Tim Curry. Richard è ancora Riff Raff, mentre Brad e Janet sono due giovani attori americani sconosciuti, Susan Sarandon e Barry Bostwick. Alla regia, neanche a dirlo, Jim Sharman. Libertà sessuale, trasgressione, molteplici riferimenti alla cultura europea e americana. Impossibile descrivere l'impatto del Rocky Horror sull'immaginario delle persone di tutto il pianeta, che ne hanno fatto uno dei cult più citati di tutti i tempi. Don't dream it, be it, dice Frankenfurter. La stessa cosa che hanno pensato insieme Jim Sharman e Richard O'Brien. E allora, cari transilvani, non sognatelo, siatelo! How'd you do, I see you've met my faithful handyman. He's just a little brought down because when you knocked, he thought you were the candyman. Don't get strung up by the way I look. Don't judge a book by its cover.